Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo ottavo. Come fare la seconda purificazione. La prima ragione che deve spingerci ad operare questa seconda purificazione è la coscienza viva e nitida del male enorme che ci causa il peccato. Riusciremo in tal modo ad entrare in una contrizione profonda e travolgente. Infatti la contrizione, per piccola che sia, se è sincera e soprattutto congiunta alla forza dei sacramenti, ci purifica sufficientemente dal peccato. Se poi la contrizione è profonda e travolgente, ci purifica anche da tutti gli affetti che derivano dal peccato. Un odio o un astio debole e fiacco ci permette di sopportare, anche se di malanimo, colui che odiamo. Se poi c'è possibile, ne stiamo lontani. Ma se il nostro odio è mortale e violento, non solo fuggiamo e troviamo insopportabile colui che odiamo, ma ci ripugna. Non possiamo soffrire nemmeno la compagnia di coloro che la pensano come lui, dei suoi amici, dei suoi parenti. Non sopportiamo nemmeno la vista del suo ritratto e delle cose che gli appartengono. Similmente, se il penitente odia il peccato solo leggermente, benché sinceramente, è vero che fa il proposito di non peccare più, ma non è come quando lo odia con una contrizione forte e vigorosa. In tal caso, non solo detesterà il peccato, ma anche tutti gli affetti, le conseguenze e i sentieri del peccato. È per questo, Filotea, che dobbiamo rendere la nostra contrizione e il pentimento più profondi possibile, perché tutto ciò che appartiene al peccato sia travolto. Così fece la Maddalena, che convertendosi perse talmente il gusto del peccato e dei piaceri che non ci pensò più. E Davide, che protestava di odiare non solo il peccato, ma anche le sue vie e i suoi sentieri. Questo è il ringiovimento dell'anima, che lo stesso profeta paragona a quello dell'aquila che muta le penne. Ora, per giungere a questa presa di coscienza e alla contrizione, devi immergerti con cura nelle meditazioni che qui di seguito ti propongo. Se ti ci impegnerai con serietà, con l'aiuto della grazia di Dio, strapperai dal tuo cuore il peccato e i principali affetti al peccato. Le ho impostate proprio a questo scopo. Le farai una dopo l'altra, nell'ordine che te le propongo. Una al giorno, di mattino se ti è possibile, perché è il tempo più adatto alle operazioni dello spirito, e ci rifletterai sopra poi per tutta la giornata. Se poi non hai dimestichezza con le riflessioni, leggi quello che ne dico nella seconda parte di questo libro. Capitolo 9. Prima meditazione. La creazione. Preparazione. Primo, mettiti alla presenza di Dio. Secondo, chiedigli di ispirarti. Considerazioni. Primo. Rifletti che qualche anno fa tu non esistevi. Anzi, il tuo essere era proprio il nulla. O anima mia, dov'eri allora? Il mondo esisteva da tanto, e di te proprio nulla. Secondo, Dio ti ha fatto fiorire da quel nulla per renderti ciò che sei, non perché avesse bisogno di te, ma per sua esclusiva bontà. Terzo, rifletti sull'essere che Dio ti ha dato. È il primo nella scala degli esseri viventi, fatto per vivere nell'eternità e per unirsi perfettamente a Dio. Affetti e propositi. Primo. Umiliati profondamente davanti a Dio, dicendo di cuore con il salmista: Signore, davanti a te sono come nulla. Come hai fatto a ricordarti di me per crearmi? Anima mia, tu eri sprofondata in quell'abisso senza fondo e ci saresti ancora se Dio non ti avesse tirata fuori. E che faresti in quel nulla? Secondo, ringrazia Dio. O creatore buono e potente, ti sono tanto riconoscente per avermi tirato fuori dal mio nulla, per avermi resa per tua bontà quella che sono. Che cosa posso fare per benedirti degnamente e rendere grazie alla tua immensa bontà? Terzo, ora vergognati. Mio creatore, anziché unirmi a te in amore e spirito di servizio, mi sono ribellata indegnamente con i miei affetti sregolati. Mi sono separata, allontanata da te per confondermi con il peccato. Non mi sono ricordata dell'onore di cui ti ero debitrice. Ho dimenticato che sei il mio creatore. Quarto, umiliati davanti a Dio. Anima mia, devi sapere che il Signore è il tuo Dio. È Lui che ti ha creato. Non ti sei fatta da sola. Signore, io sono opera delle tue mani. Quinto. Per questo d'ora in poi non voglio più compiacermi in me stessa, perché sono proprio nulla. Di che cosa vorresti gloriarti, tu, polvere e cenere, o meglio, nulla? Di che ti esalti? Per umiliarmi voglio fare questo e quello, sopportare quel disprezzo e quell'altro. Voglio cambiare vita, seguire il mio creatore, sentirmi onorata per l'essere che egli mi ha dato. Voglio impegnarlo totalmente nell'obbedire alla sua volontà, nei modi che mi verranno indicati e sui quali mi illuminerà il mio padre spirituale. Conclusione. Primo, ringraziamento. Anima mia, benedice il tuo Dio e lodino il suo nome tutte le tue viscere, perché la sua bontà mi ha tratto dal nulla e la sua misericordia mi ha creata. Secondo, offerta. Signore, con tutto il cuore ti offro l'essere che mi hai dato. Lo dedico e lo consacro a te. Terzo, preghiera. Signore, rendimi forte in questi affetti e in questi propositi. Vergine Santa, raccomandali alla misericordia di tuo Figlio, come pure tutte quelle persone per le quali devo pregare. Padre nostro, Ave Maria. Uscendo dall'orazione, raccogli un po' qua e un po' là, e scegliendo tra le considerazioni fatte, confeziona un mazzetto di devozione. Così, durante tutto l'arco della giornata, potrai odorarne il profumo. Capitolo 10, seconda meditazione. Il fine per il quale siamo creati. Preparazione. Primo, mettiti alla presenza di Dio. Secondo, pregalo che ti ispiri. Considerazioni. Primo, Dio non ti ha messo al mondo perché aveva bisogno di te. Tu non gli sei di alcuna utilità. Lo ha fatto solo per dimostrare in te la sua bontà, arricchendoti della sua grazia e della sua gloria. Per questo ti ha dato l'intelligenza per conoscerlo, la memoria per ricordarlo, la volontà per amarlo, l'immaginazione per rappresentarti i suoi benefici, gli occhi per contemplare le sue opere, la lingua per lodarlo, e così tutte le altre facoltà. Secondo, poiché sei stata creata e messa al mondo per questo, tutte le azioni contrarie devono essere bandite ed evitate. E quelle che non giovano al conseguimento di questo fine non devono essere nemmeno prese in considerazione perché vuote e inutili. Terzo, considera la sventura del mondo che non pensa a queste cose, ma vive come se fosse stato creato solo per costruire case, piantare alberi, accumulare ricchezze e fare pazzie. Affetti e propositi. Primo, umiliati e rimprovera la tua anima la sua miseria, che per il passato è stata così grande che ha pensato poco o punto a tutto ciò. Dirai: mio Dio, a che cosa mi occupavo quando non pensavo a te? Che cosa ricordavo quando dimenticavo te? Che cosa amavo quando non amavo te? Avrei dovuto nutrirmi di verità e mi imbottivo di vuoto. Ero schiava del mondo anziché rendere lui schiavo di me. Secondo, detesta la vita passata. Rinuncio a voi, pensieri vuoti e riflessioni inutili. Rinnego voi, ricordi vergognosi e frivoli. Tronco voi, amicizie infedeli e sleali. Favori veniali, interessati, soddisfazioni amare e false cortesie. Terzo, convertiti a Dio. E tu, Dio mio e Salvatore, d'ora in poi sarai il solo oggetto dei miei pensieri. Non occuperò più il mio spirito in pensieri che ti siano sgraditi. La memoria sarà occupata tutti i giorni della mia vita dalla grandezza della tua bontà, che tanto benevola è stata verso di me. Sarai la delizia del mio cuore e la dolcezza dei miei affetti. D'ora in poi avrò in orrore quel rincorrersi di vanità, quei divertimenti a cui davo tanto tempo, quelle occupazioni oziose che svuotavano la mia giornata e quegli affetti che ottenebravano il mio cuore. A tal fine mi servirò di questo e quel rimedio. Conclusione. Primo. Ringrazia Dio che ti ha creata per un fine così nobile. Tuo Signore, mi hai creata per te, perché io goda per tutta l'eternità dell'immensità della tua gloria. Riuscirò un giorno ad esserne degna e a benedirti come meriti. Secondo, offerta. Mio caro Creatore, io ti offro tutti i miei affetti e i miei propositi, insieme alla mia anima e al mio cuore. Terzo, preghiera. Ti supplico, Dio, di accettare le mie aspirazioni, i miei desideri, e benedire con la tua benedizione la mia anima, perché riesca ad attuarli, per i meriti del sangue di tuo figlio, versato sulla croce. Capitolo undicesimo. Terza meditazione. I benefici di Dio. Preparazione. Primo. Mettiti alla presenza di Dio. Secondo. Pregalo di ispirarti. Considerazioni. Primo. Considera i doni corporali che Dio ti ha dato. Il corpo, i mezzi per sostentarlo, la salute, le soddisfazioni legate a lui, gli amici, i beni materiali. Considera tutto ciò che ha dato a te e mettilo a confronto con ciò che hanno altre persone che valgono più di te e che non hanno quello che hai tu. Gli uni sono deboli di costituzione, altri sono malfermi di salute, difettosi nelle membra. Altri ancora sono oggetti di insulti, di disprezzo, di disonore. Altri ancora oppressi dalla povertà. E Dio non ha voluto che tu fossi così. Secondo, considera i doni dello Spirito. Quanta gente c'è al mondo pazza furiosa, mente catta? Perché non sei anche tu di quelli? Dio ti ha favorito. Quanti altri hanno avuto scarsa possibilità di istruirsi, o addirittura nessuna? Per te invece, la provvidenza divina ha voluto un'educazione civile, onorata. Terzo, considera le grazie spirituali. Tu sei figlia della Chiesa, Filotea. Dio si è fatto conoscere a te fin dalla tua infanzia. Quante volte ti ha visitato con i sacramenti? E le ispirazioni, le illuminazioni interiori, le correzioni per richiamarti? E quante volte ti ha perdonata? E non ricordi quante volte ti ha liberato dalle occasioni in cui ti saresti perduta? E gli anni passati non sono forse stati un tempo prezioso che Dio ti ha offerto per camminare verso il bene della tua anima? Fermati a considerare anche i dettagli e vedrai quanto buono e generoso sia stato Dio con te. Affetti e propositi. Primo, ammira la bontà di Dio. Dio è veramente buono nei miei confronti. O Signore, quanto è ricco di misericordia e grande di bontà il tuo cuore. Anima mia, canta in eterno le innumerevoli grazie di cui ti ha colmata. Secondo, ora pensa alla tua ingratitudine. Signore, chi sono io perché ti ricordi di me? Com'è grande la mia indegnità. Ho calpestato i tuoi benefici, ho disonorato le tue grazie, ho abusato della tua somma bontà e l'ho disprezzata. Ho contrapposto la voragine della mia ingratitudine all'abisso della tua grazia e del tuo favore. Terzo, muoviti a riconoscenza. Orsù, cuor mio, basta con l'infedeltà, l'ingratitudine, la slealtà verso questo grande benefattore. Non avverrà più che la mia anima rifiuti di essere sottomessa a Dio, che ha operato in me tante meraviglie e mi ha colmato di tanti doni. Quarto, Filotea, sii decisa. Sottrai il tuo corpo alle voluttà. Mettilo al servizio di Dio che ha operato cose stupende in suo favore. Impegna seriamente la tua anima a conoscerlo a fondo per renderlo suo, con questi esercizi propri ad ottenere questo risultato. Impiega con cura i mezzi che la Chiesa ti offre per la salvezza tua e per amare Dio. Sì, sono decisa a fare regolarmente orazione, a ricevere i sacramenti, ad ascoltare la sua santa parola. Metterò in pratica le sue ispirazioni e i suoi consigli. Conclusioni. Primo, ringrazia Dio che ti ha fatto conoscere i tuoi doveri e tutti i benefici da Lui ricevuti. Secondo, offrigli il tuo cuore con tutti i buoni propositi. Terzo, pregalo che ti renda forte per tradurre in atto i propositi per i meriti della morte di suo figlio. E chiedi l'intercessione della Vergine e dei Santi. Padre nostro, Ave Maria. Ed intreccia il tuo mazzetto spirituale. Capitolo 12, quarta meditazione, il peccato. Preparazione. Primo, mettiti alla presenza di Dio. Secondo, pregalo di darti la sua ispirazione. Considerazioni. Primo, pensa da quanto tempo hai incominciato a peccare e come da allora i peccati si siano moltiplicati in te. Li hai accresciuti ogni giorno, mettendoti contro Dio, contro te stessa, contro il prossimo, in opere, in parole, in desideri e in pensieri. Secondo, pensa alle tue cattive inclinazioni e a come le hai assecondate. E soltanto meditando su questi due punti, dovrai constatare come le tue colpe siano più numerose dei capelli che hai in testa, o meglio ancora, dei granelli di sabbia della spiaggia. pensa poi, in modo particolare, al peccato di ingratitudine verso Dio, peccato comune e presente in tutti gli altri e che li rende più gravi. Guarda di quanti benefici Dio ti ha colmata e di tutti ne hai abusato contro il donatore. In modo particolare hai disprezzato molte ispirazioni, hai lasciato cadere molti impulsi al bene. Ma quello che è ancora peggio, dopo che hai ricevuto i sacramenti tante volte, dove sono i frutti? Dove sono finiti gli ornamenti di cui ti aveva abbellita lo sposo? Tutto è stato sepolto dalla tua cattiveria. Ti sei preparata seriamente a riceverli? Pensa a quanto sei stata ingrata e responsabile. Dio ti insegue per salvarti e tu fuggi per perderti. Affetti e propositi. Primo. Arrossisci nella tua miseria. Mio Dio, dove troverò il coraggio di comparire davanti a te? Io non sono che un bubbone purulento, una fogna di ingratitudine e di cattiveria. Sembra impossibile che io abbia potuto essere così sleale. Non ho saputo conservare integro uno solo dei miei sensi, una sola delle facoltà della mia anima, senza corromperla, violarla, insozzarla. Non ho trascorso un solo giorno della mia esistenza senza contaminarlo con affetti indecenti. E mi pare questo il modo di contraccambiare i benefici del Creatore e il sangue del Redentore. Secondo, chiedi perdono e gettati ai piedi del Signore come un figliuol prodigo, come una Maddalena, come una donna che ha contaminato il letto matrimoniale con ogni sorta di adulterio. Signore, pietà di questa peccatrice, sorgente viva di misericordia, abbi pietà di questa misera peccatrice. Terzo, decidi di vivere meglio. Signore, con la tua grazia non voglio mai più cedere al peccato. L'ho amato già troppo. Ora lo detesto e abbraccio te, Padre di misericordia. Voglio vivere e morire con te. Quarto, per cancellare i peccati del passato ne farò un'accusa coraggiosa e non tollererò che uno solo rimanga in me. Quinto, farò tutto il possibile per sradicare dal mio cuore le erbacce, in modo particolare quelle più dannose. Sesto, a tal fine seguirò con impegno i consigli che mi verranno dati e non riterrò mai di avere fatto abbastanza per riparare le colpe del passato. Conclusione. Primo, ringrazia Dio che ti ha atteso pazientemente e ti ha dato questi buoni affetti. Secondo, offrigli il tuo cuore, impegno. Terzo, pregalo che ti fortifichi. Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria.